Kamaro mimu akoshari ludu. Fere mi mangiare wa e mia lode mi mofere mi mangiare wa e mia lode oh, mi mofere mi mangiare wa. Yanibo, Yanibo Toile. Yeah, boo.